GR Sport. Buongiorno da Dario Ricci. Doveva essere la grande giornata tricolore dell'Inter, al secondo match point scudetto dopo quello sfumato nel derby. Ebbene, neppure a San Siro contro il Siena i nerazzurri riescono ad acciuffare il titolo. Con i toscani finisce 2-2, gol di Vieira, Maccarone, Balotelli, poi pareggio senese di Carja nella ripresa. Ma all'80esimo Materazzi sbaglia, dopo averlo voluto tirare a dispetto di allenatore e compagni, il rigore scudetto. Mancini a Sky Sport. I rigoristi erano in ordine, Giulio, Mario e Marco. Questo è il calcio, capita di sbagliare rigori, capita di segnarne importanti. Abbiamo 90 minuti da giocare, quindi la delusione passerà e prepareremo la partita di Parma. Sia la nostra che quella di Catania, credo che saranno due partite toste. A tenere i giochi aperti ci pensa anche la Roma, che supera 2-1 l'Atalanta e ora è a solo un punto in classifica dai nerazzurri. A 90 minuti dalla fine Spalletti all'impresa ci crede e come. Noi meritavamo questa possibilità di giocarci questa chance per quello che è stato prodotto da questi ragazzi durante tutto il campionato. Siamo riusciti poi a crearla in pratica perché abbiamo vinto una partita difficile, soffrendo contro una buonissima squadra. Poi di là c'è stato questo risultato un po' a sorpresa e ora bisognerà continuare. Domenica la Roma sarà a Catania, che ieri ha pareggiato 1-1 con la Juventus a Torino, 19esimo gol di Del Piero. Ora gli etnei conservano 2 punti di vantaggio nella volata salvezza proprio sul Parma, sconfitto 3-1 dalla Fiorentina e allenato, manco a dirlo, dall'ex tecnico nerazzurro Cooper. Abbiamo ancora la possibilità della salvezza, dipendiamo da un risultato della Roma, però va bene. Veramente non pensavo che all'ultima partita si giocherebbe tante cose. Però vabbè, è stato così e ognuno farà quello che deve fare e il Parma farà quello che deve fare per vincere la partita. La vittoria viola intanto, insieme alla dura sconfitta per 3-1 subita a Napoli, allontana il Milan dalla Champions League. I rossoneri ora sono staccati di 2 punti dal quarto posto riconquistato dalla Fiorentina. Carlo Ancelotti. Loro hanno trovato una grande giornata, noi abbiamo trovato una giornata no, questo spiega un po' anche il risultato che è stato pesante, però credo che dobbiamo avere la forza di guardare la prossima partita. Era una partita delicata, è un peccato non averla affrontata come volevamo, tutto qua, ma poi i motivi possono essere tanti. La sconfitta interna col Torino 0-1 firma la retrocessione in B del Livorno, mentre appeso a un filo resta l'Empoli, battuto 2-0 dalla Regina. Salvo il Cagliari che sbanca Udine 2-0, vincono anche la Sampdoria 2-0 a Palermo e la Lazio 2-0 in trasferta col Genoa. In Formula 1 Ferrari vittoriosa anche nel Gran Premio di Turchia. A Istanbul trionfa Felipe Massa davanti alla McLaren di Hamilton e all'altra rossa di Raikkonen, leader mondiale con 7 punti di vantaggio sui rivali. Per Massa, terzo successo in carriera in Turchia. Mi trovo bene, è una pista difficile da guidare, dove hai bisogno di una macchina molto precisa, deve guidare molto tecnicamente, ma anche avere 2 cose grandi in mezzo alle gambe per le curvone veloci, quindi mi piace così e spero tornare sempre qui e lottare per la vittoria. E ora spazio al Giro d'Italia. Franco Pellizzotti e Riccardo Riccò, entrambi fanno le prove tecniche di vittoria di Giro d'Italia. Pellizzotti in rosa nella Valle dei Templi sogna il Duomo di Milano. Riccardo Riccò, primo ieri sul traguardo di Agrigento, spera anche lui nella vittoria finale fissata per il prossimo 1° giugno. Oggi si riparte da Catania, destinazione Milazzo, dopo 221 chilometri. Tappa adattissima ai velocisti. Il taglio del pedale aspetta il primo acuto di Daniele Bennati, compagno di squadra di Franco Pellizzotti e erede naturale di Petacchi, il grande assente. Per questo stage Gire 24, Sole 24 Ore, Catania. Completato il quadro delle gare 1 dei playoff del campionato di basket, ieri vittoria di Roma su Cantù 85-59 e di Avellino su Capo d'Orlando 103-92. Il coach irpino Boniciolli spiega così a Sky Sport le ragioni della vittoria. In una partita ad altissimo punteggio ci siamo messi a difendere, abbiamo rubato qualche pallone e credo che anche la nostra condizione atletica sia stata forse un po' migliore della loro. Stasera gara 2 tra Fortitudo Bologna e Siena e Milano-Montegranaro, con Toscani e Marchigiani avanti per 1-0. Chiudiamo col tennis, Novak Djokovic ha vinto gli internazionali d'Italia. In finale il 20enne serbo ha battuto lo svizzero Wawrinka 4-6, 6-3, 6-3. Oggi il via al torneo femminile. Vi ricordo l'appuntamento alle 14 con A Tempo di Sport. Ancora una buona giornata da Dario Ricci.